Supina, Daisy, picchiettando, strofinando il monte di Venere. Chiudi gli occhi, intorpidita, e poi sbatti la porta. Usi la punta delle dita e bagni la tua polpa. In piedi o da seduta, tu mi stimoli per lungo tempo. Col cuscino, con la sedia e la spalliera del tuo letto. Sei per terra, sul tappeto, a gambe di barico. Con il ghiaccio e muovi una cosa.